Un respiro dietro l'altro. La convinzione di dover respirare. Ossigeno puro per i polmoni. Hai paura? Di cosa? Di sparare. E perché? Un nemico di meno, sciocco. Un respiro dietro l'altro, la convinzione di dover respirare, ossigeno puro per i polmoni, e continuare ad esistere, tenere gli occhi aperti, chiuderli quando hai voglia, spostarsi da un posto all'altro, alzare la voce, spesso, sorridere o ghignare, tacere. Questo è vivere. Non ho armi. Prendi questo fucile. Non so sparare. È facile, prova. Ma non è giusto. È pericoloso. Un morto di più, nessuno lo conta. Vedi che prega. Se prega, prima o poi ti tradisce. No, lui no. Non posso. Sei un vigliacco. Dai, sta spuntando l'alba. Dobbiamo scappare. È facile. Un respiro dietro l'altro, la convinzione di dover respirare, ossigeno puro per i polmoni, e continuare ad esistere, tenere gli occhi aperti, chiuderli quando hai voglia, spostarsi da un posto all'altro, alzare la voce, spesso sorridere o ghignare, tacere. Questo è vivere. E allora, trattenere il respiro fino a che senti la vena del collo scoppiare, mordere le proprie dita fino a che senti il dolcissimo sapore del tuo sangue, bruciarsi i polpastrelli fino a che senti la vista nera del dolore. Questo per essere liberi! Il mondo uccide i suoi figli migliori. L'umanità non ha pietà di chi è troppo onesto. Non sopporta termini di paragone. Per chi dice la verità, per chi trasforma la speranza nella disperazione dei propri limiti, non c'è aria a disposizione. Franco Molé nasce a Terni nel 1939. Dopo aver seguito studi classici e giuridici, inizia la sua carriera teatrale con il gruppo universitario e debutta come autore grazie a Ruggero Jacobi all'Eliseo di Roma. A soli 25 anni. Entra nel gruppo dirigente del Nuovo Teatro ad Ivrea. Fa parte della redazione della rivista Teatro insieme a Ettore Capriolo, Franco Quadri, Edoardo Fadini e Giuseppe Bartolucci. Dirige il Teatro Studio all'Università di Urbino con Luciano Codignola e Mario Missiroli. E fonda nel 1967 a Roma il Teatro alla Ringhiera. Giuseppe Paolo Samonà, dalla prefazione del libro delle commedie di Franco Molé. Caro Franco, credo di poterti dire senza alcuna remora che il giorno del nostro primo incontro mi apparisti poco meno che un folle. Sì, proprio un matto intendo. Del resto ero stato un po' prevenuto in questo senso. Mi avevano telefonato la mattina dicendomi: c'è un tipo strano che viene da Terni e vuole assolutamente parlarti oggi pomeriggio. È accompagnato da altri amici, un po' strani anche loro, ma mi sembrano brave persone. Adesso non ricordo tutti i particolari, ma alcuni sì, in maniera fotografica. Per esempio, a un certo punto, per spiegarmi meglio una certa idea del rapporto fra parole e azione, cominciassi ad andare su e giù per la scaletta che portava al soppalco. Sembravi tanto invasato da quella dimostrazione da farmi temere per qualche istante che, per essere più chiaro, ti buttassi giù. L'incontro invece si concluse senza eventi traumatici e con l'impegno di rivederci presto. Rimanemmo, io e Giulio Savelli, il mio socio, in qualche modo suggestionati, se è vero che in pochi giorni decidemmo che di quel genio giovane angariato avremmo pubblicato la biografia e le opere teatrali. E poi concludemmo che facendo questo mestiere si veniva in contatto con gente di ogni tipo. Il mondo è perfettamente quadrato. Quello si chiama pavimento e questo sotto i nostri piedi soffitto. I buoni vanno tutti all'inferno per premio. I cattivi per punizione vanno tutti al paradiso, che è un luogo pieno di angeli con le corna. Il sole sorge ad occidente e tramonta a levante. E quando sarai grande, se avrai molto, molte cose che tutti sapranno che sono tue, allora potrai dire di avere una dignità. Caro Franco, la verità è che tu non solo sei fatta a modo tuo, ma quando fai anche un poco a modo d'altri, allora non ti diverti più. Che è gran brutta cosa, perché deve intrattenere il pubblico con l'Amleto, con il Varietà. Quindi si può ben dire che sei rimasto indipendente più per necessità che per merito. Se conquisterò te, conquisterò il mondo. Con la mia matematica ti farò vedere quante poche erano le cose su cui si poteva fantasticare. Io, Evaristo, ti limiterò in tutto. Ti indicherò la strada oltre la quale non potrai andare. Ti dimostrerò che siamo circondati non più da angoli bui da scoprire, ma dal niente più assoluto, più illuminato. Ci sarà una sola direzione da seguire e ti indicherò come fare per illuminarla piano, piano. E forse quella strada è infinita. All'infuori di quella non c'è salvezza per nessuno. Dobbiamo rassegnarci ad incamminarci tutti su quella. È la scienza che lo impone. E convincerò il mondo intero a seguirci. Sarà dura, ma ce la faremo. Non servono ordini, non servono armi, non servono prigioni, non servono governanti, non servono professori, non servono leggi, non servono dei. Serve soltanto questa. Questa. La testa. Tutti ce l'hanno, ma non lo sanno. Non lo sanno. Qualcosa sulle tue opere, però, ho proprio voglia di dirla. Qualcosa su quello che in tanti anni e in tanti e tanti mutamenti, anche tuoi, non è invece mutato. Cioè il tuo essere fondamentalmente un moralista che doma la sua rabbia, o meglio la rende sopportabile e commestibile, narrandone e mettendone in scena le cause e i fini. Volevo dire a qualcuno quello che penso, senza litigare. Io volevo dire a qualcuno che io sono un pittore bravo che nessuno conosce, che dipingo meglio di tutti, che ho voglia di fare un affresco grande, grande come la paretta di Santa Maria in Trastevere, che voglio colpire tutti con la novità della mia proposta, che voglio far partecipare la vita vera, quella vissuta tutti i giorni, che voglio imprigionare sulla tela la stessa luce che vediamo ogni mattina, che apriamo gli occhi. E vorrei dire a tutti che i santi erano gente come noi, stanca, brutta, sudicia, sudata, puzzolente, che nessuno è mai andato in paradiso, che il paradiso non c'è. Federico Doglio, dalla prefazione di Affacciati la ringhiera. Il mio primo incontro con Molière risale al 1967, l'anno in cui egli inaugurò il teatro alla ringhiera, mentre continuava il suo lavoro editoriale presso Samonà e Savelli. Venne a trovarmi alla RAI e mi portò alcuni dei suoi testi teatrali appena pubblicati. Fu fra questi che, diventato condirettore dello Stabile di Torino, scelsi Charles del Divino Amore come esempio significativo da proporre all'attenzione del pubblico e della critica torinesi. Padre, è scoppiata la guerra in Europa. La notte doveva arrivare, Paul. La violenza esplode e spazza via tutto il resto. Ne sentiremo le conseguenze. Che fai tu? Rimarrò qui. E chi racconterà le tue cose? Chiunque può farlo. Anche tu, non volendo. Non è che non voglio, non posso. Non puoi? Là fuori ci sono le mie genti che sparano. Come potrei abbandonarle? Ah, non devi, infatti. Ma le tue genti sono le mie genti. Ed anch'io non le abbandono. E come? Stando qui chiuso, al riparo di questo fortino ostile? Credi che la mia momentanea dimora possa significare ostilità? Certo. Non sei più uno di loro, uno di noi. Non vivi più nelle capanne, non dividi più le nostre angustie. Pensi davvero che la mia è una vita di lusso senza rinunce? Ci hai insegnato l'umiltà nel darci fierezza e ora ti nascondi. Non più. Hai paura di morire e non vuoi raggiungere il tuo Dio. Sei rimasto inchiodato a questa terra perché incapace di altro, incapace di agire. Cosa credevi di scoprire nei volti all'infuori della nostra miseria e della nostra rabbia? Ho voluto soltanto rendervi coscienti, niente di più. Ho voluto soltanto farvi conoscere di più ai miei. Ho voluto soltanto farvi vedere che non c'è differenza tra voi e me. La figura dell'ex ufficiale francese Charles de Foucault, convertitosi da una vita licenziosa a un'esistenza d'eremita e di apostolo del Nord Africa, trovò in Molé, autore del testo, frammentario e illuminante per scorci rivelatori, privo di intenti apologetici, ma animato da un'inquietante poesia, l'attore adeguato al suo ruolo, virile e insieme interiormente turbato, generoso e strenuo fino al sacrificio. Fu un successo e l'inizio di una vicendevole stima. Era il 1967. Crisi galoppante del teatro. Sale vuote. Teatro da dessert. Tentativi di rinnovamento. Ma dove? 7-8 teatri normali. Circuito chiuso. Un magone. Capocomici e tradizione. Tradizione e capocomici. Un posto. Un buco per esprimersi. Un buco? Teatro alla Ringhiera, via dei Riari 81. Eccolo il buco! Ghigo dichiara, l'avanti. Prima o poi qualche psicanalista prenderà ad occuparsi del complesso della cantina che incombe sui teatranti delle ultime generazioni. Come una forma di groviera già ampiamente bucherellata da catacombe e da fognature, Roma, adesso, pare voglia scrivere col teatro le sue memorie del sottosuolo. E noi, per quanto cronisti diligenti, appassionati, faticosamente riusciamo, senza pallottoliere, a tener dietro al numero crescente di scantinati che ospitano i riti delle mille avanguardie decise a tutto, anche a manifestarsi in orgoglioso isolamento, davanti a giovani furie spettinate, infreddolite, e a indulgenti genitori, tranquillizzati dal fatto che tanto ai loro ragazzi passerà. Con questi pensieri ci siamo calati nel nuovo antro trasteverino della Ringhiera, dove a smentire le previsioni ci aspettavano poltroncini di velluto rosso, moquette e stampe d'antiquariato alle pareti. A pian terreno, 7 saracinesche sulla via e 4 grandi porte sul cortile interno. Tutto aveva fuorché di cantina. Non era scomodo, non era umido, accogliente, ben arredato, luminoso. Semplicemente un piccolo vero teatro di 99 posti, la cui sala, struttura tradizionale, palco e platea divisi da un sipario, poteva adattarsi ad esigenze registiche diverse. Si trovava a metà strada tra il carcere di Regina Celi da un lato e Porta Settimiana dall'altro. All'ombra del Gianicolo e della Quercia del Tasso. A fianco del Palazzo Corsini. Di fronte a Villa Fardesina. A 2 passi dal Tevere e dalle sequoie dell'Orto Botanico. E tutto dipenderà dal che cosa e dal per quanto tempo gli animosi promotori di questo teatro sapranno proporsi. Erano i primi anni delle nuove proposte teatrali e c'era curiosità, sete di novità, voglia di ricerca. Si sentiva l'esigenza e il bisogno quasi vitale, frenetico, di incontrarsi, di trovarsi, di scambiarsi idee e fantasie. Eravamo delle furie, senza mezzi termini e senza senso critico. Cosa fosse il nuovo teatro? Non lo sapeva nessuno. Quello che avevamo capito bene era quello che non volevamo fare. Per noi tutto era sbagliato. Bruciamo l'Argentina, bruciamo il teatro Quirino. Non si salvava nessuno, il discorso era di totale distruzione. E Carmelo Bene era il nostro sacerdote. Si faceva teatro dappertutto. Nelle cantine. Nei sottoscala. E nei magazzini. Nelle piazze. Nelle case. Nelle fabbriche. Ricordo un operaio di Bologna che dopo lo spettacolo che avevamo fatto in fabbrica mi disse: Moulin, non c'è sta 8 ore in fabbrica? Ci volete far stare altre 2 ore qua dentro? Adottavamo per i nostri spettacoli i famosi prezzi politici, 500 o 1000 lire. Ehi, sono venuta a teatro per la prima volta a vedere il tuo Evaristo. Ho pagato 1000 lire e mi è piaciuto. Domani c'è una prima al Carignano con Brammieri. Costa 10.000 lire, deve essere favolosa. E così spesso non avevamo una lira. Ma da Augusto a Trastevere si mangiava con 600 lire e tanto ci bastava. Noi cercavamo la consacrazione poetica, non il denaro. Il teatro alla Ringhiera divenne uno dei centri più attivi e vivaci dell'avanguardia romana. Tanti i nomi che ci passarono. Mario Ricci. Pierallì con la compagnia Ouroboros di Firenze. Leo De Berardinis e Perla Peragallo. Nino Russo con lo spettacolo Self-Made Man. Ogni sera, durante le repliche e in qualunque momento dello spettacolo, entrava in sala Cosimo Cinieri, che iniziava a declamare America di Ginsberg alle orecchie degli spettatori. America vaffanculo! America vaffanculo! America vaffanculo! E poi se ne andava. Pippo Di Marca, Edmondo Aldini e Duilio Del Prete con lo spettacolo Come correvano. La battaglia di Pasquale Squitieri con Anna Maria Guarnieri sugli scontri di Valle Giulia. Lo spettacolo era talmente breve che al termine Squitieri saliva sul proscenio e invitava candidamente il pubblico a completare la serata andando al cinema. I primi testi di Molè messi in scena alla Ringhiera. Le armonie, Il giudizio del dente, Concerto grosso per Brug. Oh sì, ti prego, raccontami la storia. Finalmente era sola in casa. Lei? Lei, sì, chi altri? Oh, dolcezza. Le baciai la mano e con molta grazia entrai nella sua camera. Oh, cielo! Mi sedetti sul sofà rosso e lei si pose al mio fianco. E cosa dicevi? Sospiravo. Dopo i sospiri la fissai negli occhi che abbassò pudica. Languore di un dio. Le accarezzai una guancia. E lei? Mi baciò la mano. Oh, godimento. Le afferrai la testa, poggiai le labbra sulle sue. Ancora. Si abbandonò sul mio petto. Di traverso vedevo il suo ginocchio scoperto, incorniciato da un leggerissimo merletto nero che saliva, saliva, scoprendo ancora di più la sua carne rosea. Sempre più su. Sempre più su. Cedeva. Raccolsi le mie forze, convulsamente la feci scivolare in terra, in un mare di indumenti, ci rotolammo sul pavimento. E allora? Quando non sapevo più quale fosse il mio corpo e quale il suo. Poi? Rientrò la mamma. No! Sì, rientrò la mamma. Io, ogni volta che la racconti, spero sempre che finisca bene. No. Ogni volta che la racconto finisce sempre così, non cambia mai. Arriva sempre la mamma. Le compagnie straniere alla Ringhiera, l'Odin Theatret, i grandi mimi, Roy Bozier, Yves Le Breton, Jean Attel, Julio Lubeck. Tra questi spettacoli, Le Mort de Bataille, presentato dalla compagnia Le Lucernaire de Paris, con Nadia Vasil che recitava in francese. Ci fu un enorme fermento nel pubblico che era estremamente curioso di scoprire un nuovo autore. La Vasil si scopriva tranquillamente da sola. Era nuda fino all'inverosimile. E tutti facevano a gara per prenotare i primi posti del lato destro della sala. Oh, se vede meglio. È vero che lo spettacolo era molto engagé e di non facile decifrazione linguistica, ma che alcuni aficionados volessero discuterlo soltanto da una sola angolazione estetica, beh, mi sembrò in quel caso un grosso limite culturale. Ci sentivamo liberi e forse lo eravamo davvero. Sì, liberi di bruciare. Debuttano i concerti folk di Peppe Chierici e Daisy Lumini, che spaziano dal repertorio delle antiche ballate toscane a quelle francesi, salendo su, su fino a Brassens. Gli spettacoli di Giovanna Marini, che sapevamo quando iniziavano, ma mai quando finivano. Sono tornata qua con una sola idea molto chiara. È tutta da combattere, è tutta da distruggere, non c'è niente da salvare. La sirena era alle 5, alle 9 il primo break, alle 2 un altro fischio, alle 5 tea and cake. Però li trattano bene gli operai, ebbene sì. Molte volte intervenivano sul palco improvvisando altri suoi amici, compagni di chitarra come Pietrangeli, Settimelli, Della Mea. Gli spettatori che mettevamo attorno a lei come sardine alla fine l'accompagnavano in coro negli interminabili bis. Ci pensavano alla protesta degli inquilini del palazzo a farli smettere. Allora Giovanna, dispiaciuta per l'ora tarda, li ringraziava, pregandoli di essere più solleciti le sere successive. Ad ogni suo debutto veniva ad omaggiarla un aficionados d'eccezione, Paglietta, che esigeva sempre di pagare il biglietto. Che tempi! La prima a Roma di Rosa Balestrieri, che salendo sul palcoscenico per la prima volta, si chiedeva perché usassimo tutte quelle luci su di lei quando le era sufficiente una lampadina. Che emozione! Una sera a trovarsi di fronte alla cassa all'improvviso... Arthur Miller! La prenotazione non era a nome suo. Riuscimmo a rubargli una foto di spalle, in piedi, in mezzo alla sala, mentre ringraziava, stupito, il pubblico che lo applaudiva. E Federico Fellini, che resta dopo uno spettacolo e inizia a curiosare freneticamente per il locale, salendo e scendendo da quei pochi metri quadrati di palcoscenico, girando attorno al pannello dipinto per tutta la lunghezza del fondo palco, facendosi aprire tutte le porte che davano sul cortile verso i camerini, il magazzino, rivolgendo domande sugli inquilini del palazzo e poi rientrando, fermandosi davanti al palco per dire stupefatto: che profondità! Che profondità! È così piccolo! Aficionados, così alcuni critici un po' ironicamente chiamavano il pubblico di quegli spettacoli. Un pubblico folto ed attento, scriveva Gian Antonio Cibotto, nel quale spiccavano i volti dei soliti aficionados come degli intellettuali più sofisticati. Se tu sai che il tempo non ritorna indietro e vedi la tua vita attraverso un vetro, corri, allora corri, fermarti mai, ciò che devi dire dillo come puoi. Quei primi anni si chiudono con la ripresa dell'Evaristo di Molè, questa volta con la sua regia e con le musiche di Pippo Franco, dopo che Ruggero Jacobi lo aveva allestito al Piccolo Eliseo con Thomas Millian. La storia dello scienziato Évariste Galois, genio della matematica, morto appena ventenne, che lottò contro l'ottusità delle accademie di Francia che non accettavano le sue geniali intuizioni algebriche. È un inno alla libertà creativa, alla libertà di parola e di pensiero. Il padre. Egregio Galois. L'ho convocata alla mia presenza perché possa puntualizzare una volta per tutte la sua indecente maniera di comportarsi. In casa, nella comunità, a scuola. Non perde occasione, ho avuto molte lagnanze in proposito, di dimostrare il suo alto disprezzo verso la civica convivenza e quel che più importa, facendo il più basso conto del nome che, per sua fortuna e per nostra disgrazia, lei ha avuto la ventura di portare. Il figlio del Major Galois offende sistematicamente i suoi insegnanti, oltraggia il suo nome trascinandosi in giro per le vie una comitiva fatta di teppaglia. È irriverente con le signore che incontra in qualunque posto. È stato persino udito usare un certo linguaggio triviale dinanzi ai pubblici albi del comune. Non credo ci sia altro da fare che allontanarla dalla comunità. La madre. Evaristo potrebbe sembrare, a primo colpo, un poco di buono. Quando mi torna a casa, durante le ore di lezione, non ha il coraggio di mentire e mi dimostra, in maniera per la sua età, paurosamente logica, l'inutilità delle ore appreso ai suoi insegnanti. Mi chiede: ma perché la Francia ha fatto quella famosa rivoluzione di cui tutti parlano ed è divenuta l'orgoglio di ogni buon francese, se non gli è permesso poi di consumare i suoi giochi con chi dei suoi coetanei gli sembra più simpatico? Offendere le signore non se lo è mai sognato. Tutt'al più è in grado, con quasi perfetto distacco, di puntualizzarne la venenza o la bruttezza. I baffi di Madame G sono troppo evidenti perché possa permettere alla sua coscienza di mentire e di considerarsi un cretino. Ciò facendo aiuta la Francia, a modo suo. Posso riconoscere che un ambiente diverso potrebbe calmare la sua vivacità. Prima eccitante tournée con Evaristo, che conoscerà ben 24 edizioni. Si parte! Anche Se la prima stagione inizia nel peggiore dei modi, la 500 di Angelo Guidi, aiuto regista ed amico per una vita di Molè, si incendia sulla Cristoforo Colombo il giorno in cui si andava a ritirare l'agibilità ministeriale. E Franco preferisce allora partire in Dushfu. Convince suo cugino medico a scritturare la compagnia insieme ad altri 3 suoi amici che si impegnano a versare 100.000 lire l'uno per 2 repliche a Pizzo Calabro. Al teatro club di Trani, dove lo spettacolo dava fastidio a quelli che giocavano a carte, Franco inaugura una delle sue poi celebri e famose discese dal palcoscenico, andando a sua volta a spaventare i seccatori. Il bello di questo mio brevetto era che non interrompevo lo spettacolo, ma continuavo a recitare la parte in faccia agli spettatori che disturbavano. Evaristo è il primo testo moderno rappresentato in uso in uno dei templi sacri del classicismo, Tindari. A San Pietro Patti viene vietato dal parroco perché immorale. Il giorno dopo viene rappresentato nel chiostro del convento dei Cappuccini a Naso con la popolazione abbarbicata sulle colonne. Ad Amantea la popolazione si era presentata al campo sportivo per un concerto di Evaristo e il suo complesso, dopo essere stati invitati dal comune ad una serata danzante, di apostrofo anzante, con manifesti affissi su tutti i muri. Con Evaristo la compagnia conquista Milano. Gli attori, con barba e eschimo, vengono guardati con sospetto dai milanesi, che li prendono per terroristi. Erano i giorni di Piazza Fontana. Ancora non si sapeva che i terroristi vestivano anonimamente come il più buono degli impiegati. Una curiosa giornata di primavera. Volano sassi, catene, urla, bastoni, sputi. Calpestavano ossa, pelle, parole. Inconsistenza friabile su quelle gradinate, in quei viali, tra quegli alberi. Ci piombavano addosso con tutta la forza della loro inutilità e gli altri sparirono. Molte voci intorno a Oreste. Uno spettacolo duro, difficile, senza concessioni. L'Oreste è Oreste Scalzone di Potere Operaio. Amico da sempre di Molè, celebrato nel testo in un busto di gesso, dopo che un armadio lanciato da una finestra della facoltà di lettere lo aveva costretto a mesi d'ospedale con la schiena spezzata. Quando si vuole sovvertire non bisogna amare, non bisogna fraternizzare, non bisogna trattare nessuno con umanità. Perché c'è sempre qualcuno che con le tue stesse armi ti fa saltare i denti, ti spezza la lingua, ti brucia gli occhi, e non lo fa di persona, ma per mezzo dei tuoi amici. A proposito dell'Oreste, il Messaggero scrive che Molè fa i provini ai suoi aspiranti attori ponendo quesiti sul Capitale di Marx. Nell'estate si elabora un grande evento, i Cenci di Artaud. Massimo D'Ursi del Resto del Carlino. Ecco uno spettacolo da vedere, i Cenci di Artaud, dato per la prima volta integralmente in Italia. Spettacolo non facile da raccontare per la varietà e complessità dei temi, ma facile da raccomandare. Ageo Savioli, L'Unità. Colorito e spesso pungente è l'aspetto più strettamente visuale della rappresentazione. Gli spiritosi costumi di Iris Cantelli e Raffaello Gallo, i materiali scenici, il fondale pittorico di Raffaele Leonpori e la gradazione degli effetti luministici. Successo caloroso, si replica. Roberto De Monticelli, Il Giorno. Molè non ha voluto fare uno spettacolo artaudiano. Ci si è semmai riconosciuto in quanto interprete nelle sue visioni e nelle sue profezie. Paolo Emilio Poesio, La Nazione. Non sapremo mai quale avrebbe potuto essere, secondo Artaud, l'autentica dimensione del dramma portato sul palcoscenico. Restano pochi i momenti in cui la parola dello scrittore supera la ribalta e si fa presente, scavalcata facilmente dalla gestualità di una rappresentazione con il suo suggestivo contorno di luci e di suoni. Arturo Lazzari, L'Unità. E che cosa hanno fatto del testo di Artaud i suoi nuovissimi seguaci? Invece di una tragedia, Ci hanno offerto un'edizioncina disincantata sul filo anche di una sottile ironia. Ettore Zoccaro, men. Mollet ha inventato uno spettacolo che è un'incessante scoperta. Uno spettacolo che andrebbe rivisto 2, 3, 4 volte per riscoprirlo ogni volta da un'angolazione diversa. È lo spettacolo che affermerà definitivamente la compagnia alla ringhiera. 10 edizioni, dal 70 al 78. Per ben 8 anni sarà seguito da decine di migliaia di spettatori, provocando dibattiti e dispute. Presi in esame tutte le rimanenti novità italiane rappresentate nella stagione, la giuria ritiene all'unanimità di segnalare come novità italiana Charles del Divino Amore di Franco Mollet. Lo Charles vince il premio Idi Saint Vincent e approda al Monzoni di Milano. Grandi critiche. Scrittura asciutta, nervosa, incurante di eleganza e di raffinatezza e di espedienti tecnici accattivanti. Poesio, La Nazione. È teatro vero, è teatro nudo. Di Mollet si può dire che è sdegnoso del successo. L'applauso non lo interessa, preferisce l'attenzione. Giovanni Mosca, Corriere d'Informazione. Bisogna soprattutto riconoscergli lo sforzo intelligente di buttarsi oltre la ribalta, di farsi capire da un pubblico che un secolo di teatro borghese può aver oppiato, ma che pochi anni di teatro insulsamente contestatario hanno portato all'esasperazione e al rifiuto. Carlo Maria Pansa, La Fiera Letteraria. Grandi critiche anche degli avanguardisti che accusano Mollet di imborghesirsi. Nuovo spettacolo shock, L'amante di Lady Chatterley, a Bologna in prima nazionale. Con la formula Eti Sud, la compagnia alla ringhiera inventa e apre nuovi circuiti teatrali in Basilicata, Calabria, Puglia. Vibo Valentia, Tropea, Calabria, Vallo della Lucania. Comincia il viaggio di Mollet nel teatro medievale con la leggenda di Tommaso e poi l'estate di Mona Lisa. Mentre la ringhiera debutta Laodomia e Il maschio educato, due nuovi testi di Mollet. Cosa fai quest'anno, Mollet? Pirandello? No. Shakespeare? No. Goldoni? No. Molière? No. Wilde? No. No. Faccio mio nuovo testo. Mollet, tu sei pazzo. Sei proprio pazzo. E allora ho cercato di adeguarmi un po'. Debutta il Kennedy, tratto da un'opera dell'allora ministro Luigi Preti. C'è un momento magico nell'esistenza di ognuno in cui si ha la colpa di avere 20 anni circa. In quei nostri 20 anni Kennedy rappresentò uno strano miscuglio di miti che potevano diventare realtà e che probabilmente non lo sarebbero stati se avessimo avuto qualche lustro in più. E poi il Caligola di Camus, con cui Mollet chiude il trittico delle avanguardie francesi dopo Jarry e Artaud. Sarebbe necessario avere la grazia e la freschezza di quello straordinario artista che rispondeva al nome di Aldo Palazzeschi per scrivere degnamente la favola di Mollet. Per gli amici, più semplicemente Franco, un candido innamorato della scena drammatica che un bel giorno, deluso dalle esercitazioni retoriche dei suoi colleghi più illustri, prende in affitto una specie di antro in via dei Riari e fonda la compagnia alla ringhiera, allestendo dalla sera dell'inaugurazione, nell'ormai lontano 1967, alcuni dei lavori più vivi e stimolanti presentati, fra discussioni e incomprensioni, dal versante dell'avanguardia. Il caso Mollet induce quasi di prepotenza a segnalare un modo antico e insieme nuovo di servire il teatro, vale a dire in umiltà, animati da una dedizione completa e da uno spirito di sacrificio, che ritroviamo nella nuova messa in scena del Caligola, uno spettacolo da vedere, Cibotto il Gazzettino. La compagnia viene scritturata per 2 mesi estivi a Camaiore, Lucca. Arrivando, ci accorgiamo che al posto del teatro c'è solo un bel prato, ci rimbocchiamo le maniche e lo costruiamo con l'aiuto dello scultore Giulio Ciniglia e del pittore Fausto Maria Liberatore in tempo per inaugurare la più lunga rassegna estiva basata tutta sul nostro repertorio, che ormai comprende 7 spettacoli sempre pronti. Molè affronta D'Annunzio con la Vergine Orsola, con un nuovo urlo di dolore della sinistra dopo il Kennedy. Molè riduce per il teatro Madame Bovary e il teatro di Via dei Riari è preso d'assalto anche per la scelta della protagonista, Martine Brochard, che debutta in lingua italiana. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas. Sono il poeta della tua immagine. Non ho fatto e non sono modella. Lo farai per me. E chi te lo dice? Il tuo amore per me. Come mi compenserai? Ti metterò sugli altari con la benedizione papale. A chi pensi? Ad una Madonna che abbia sangue, vita, seno, collo, cosce, culo, sesso. Ad una Madonna che non esiste. Ad una Madonna che non è mai stata fatta, ma se c'è stata è stata così. E chi te lo fa fare? Nessuno mi impedirà ciò che sento di fare. Io li ho già fatti questi quadri. E dove sono esposti? In una galleria privata. E dov'è? Qui. Sono tutti qui. Nella mia testa. È l'anno di Caravaggio, la prima delle mega produzioni con 25 attori che non saranno mai presentate alla Ringhiera per la nota legge della impenetrabilità dei corpi. Il titolo originale è Caravaggio, probabilmente. Ma alcuni giornalisti scrivono che forse Molè dirigerà un Caravaggio. Allora si lascia in locandina solo Caravaggio. Ma alcuni organizzatori perplessi dicono che la gente penserà ad una mostra di pittura. Insomma, la tournée di Caravaggio fa scoprire alla compagnia teatri bellissimi. E Toguri immondi in mezzo alla neve di fronte a questi. La Brochard voleva essere riportata subito a Parigi. Ah non, jouer dans des troupes pareilles, j'en ai marre. Je veux absolument rentrer chez moi à Paris. Oui. Per non perdere delle piazze, Molè si inventa tutto lo spettacolo in playback. Figurarsi lo scontro con alcuni autonomi che volevano usare i microfoni finti per comunicare una loro protesta in Santa Maria in Trastevere. Ci scusiamo con il pubblico, ma Edouard purtroppo non potrà essere alla partenza. Si è sentito male per una indigestione. Ecco chi vince, caro Tristan. La folla, gli uomini e le donne, quelli veri, quelli duri, quelli spietati. Guarda quello com'è arrabbiato. Soffia, sbuffa quel colosso dal collo taurino. Come si dice per il rugby? A tre quarti. Ecco, farebbe bene il tre quarti, un bel tre quarti di bue. Inizia l'avventura di Toulouse-Lautrec, tournée esaltante e preoccupante. Ogni giorno sembra che lo spirito di Lautrec voglia far dispetti. Problemi e sostituzioni all'infinito. Il più grosso di tutti, l'arresto di Adalberto Rossetti, Bruin, per banda armata a Genova. Angelo Guidi lo sostituisce al volo, traghettando poi il personaggio a Duilio del Prete, che si cucirà la parte addosso. Camminando lentamente sulla Senna si possono incontrare tante cose, una più, una meno, ma famose sono le cose che si incontrano a Parigi, a Parigi, a Parigi, a Parigi. Una cosa sontuosa, una cosa luminosa, una cosa graziosa, una cosa leziosa, una cosa preziosa, una cosa sfiziosa, una cosa focosa, una cosa morbosa, bella, impura, torbida, piccante, lussuriosa. Sono queste le cose che ognuno che vuole può trovare a Parigi, solamente a Parigi, perché questa è Parigi. Passiamo le feste natalizie a Milano ed anche noi sperimentiamo l'usanza, allora tutta meneghina, di raddoppiare il prezzo del biglietto a Capodanno. Concludiamo la stagione con una replica in una chiesa sconsacrata di Narni. Faceva un certo effetto il cancan ballato sotto l'abside romanico. Abbiamo creato un mondo fittizio. Tu, Lautrec, con i tuoi colori, io con le mie danze, la Gilbert con le sue parole, Bruant con le sue canzoni. Ci siamo ingannati, illusi. La vita non è questo, non è solo questo. Amici, parto, parto lontano. Ci rivedremo non so tra quanto. Adieu, Sara Bernard dei Mercati Generali. Adieu, Jean. Venitemi a trovare, amici miei. Venitemi a trovare non appena tornerò dal mio lungo viaggio di esplorazione. E poi che succede? Federico D'Oglio, direttore del Centro Studi Medievali e Rinascimentali, offre a Franco una sfida impossibile con Cena Cipriani di Giovanni Monide, una fantasia biblica della fine del primo millennio tutta scritta in latino. Se questo spettacolo fosse uscito da qualcuno dei rinomati e reclamizzati laboratori del Teatro Nuovo, ci assordirebbero a furia di parlarne. Relegato fra le pur splendide architetture di questa città che non ha risorsa che l'arte, esso vivrà nel ricordo degli intenditori e di una cospicua parte del pubblico e rimarrà affidato alla buona volontà di qualche cronista e si spera al riconoscimento degli organizzatori. Giorgio Prosperi, Il Tempo. E dopo? Dopo si tenta di dare una svolta più commerciale all'attività. L'Eunuco di Terenzio con la coppiata felice Paolo Ferrari e Martin Brochard. La Cistellaria di Plauto. Le felici parentesi della rappresentazione dei Santi Giovanni e Paolo di Lorenzo de' Medici al Teatro Valle e all'Olimpico di Vicenza. Le riprese di 70 volte 7. Concerto grosso per Brug con un grande Angelo Guidi. Ultimo scandalo? Strafottenza carnale. In quegli anni cominciava il lungo braccio di ferro con lo sfratto. Conci di questa situazione ci sembrò da sprovveduti non cogliere la strada della commerciabilità per sopravvivere. In futuro quindi, salvo rari colpi di coda, nessuna proposta fu più all'altezza della nostra storia. Da soli non eravamo riusciti a dare quell'accelerata necessaria per sfuggire alla pagna ristagnante della routine. Non ci riuscimmo o non si poteva. Ogni illazione è legittima. D'altronde la grande critica cominciava a non avere più spazio nei giornali e noi di quella vivevamo. Gli operatori culturali che acquistavano le novità che noi sapevamo confezionare non erano più o non volevano più rischiare. E allora? Che reste-t-il de nos amours? La grande stagione del teatro della novità e della ricerca. E cosa si può portare in bilancio? Tanti debutti tra autori, musicisti, tecnici, attori, registi. Un discorso ampio ed esauriente su Molé commediografo. Un ampio esame delle avanguardie del Novecento europeo. Jarry, Artaud, futuristi, Camus, Ionesco, Beckett. Una rilettura scenica dei grandi romanzi scandalo della letteratura moderna. Bovary e Flaubert, Orsola e D'Annunzio, Chatterley e Lawrence. Un nuovo e vivo impegno sulla drammaturgia medievale sacra e profana. La leggenda di Tommaso, l'estate di Monna Lisa, Asinaria Festa, Cena Cipriani, la rappresentazione di Giovanni e Paolo. A ciascuna di queste proposte la Ringhiera e Molé hanno offerto la loro onestà intellettuale, la loro preparazione professionale. Provocazione e scandalo, segni inequivocabili di teatro e magia scenica. In un dibattito pubblico, Gassman e Albertazzi si lamentavano che sulla scena attuale mancasse lo zolfo. È questo l'odore che noi sentiamo sfogliando i programmi di quegli anni. Così te ne vai? Ci provo. Mi dai le carte? No. Ho ancora poco e ti saluto. Allora ti racconto un'altra storia. Anche questa è vera? Questa non lo è mai stata. Che storia è? È la storia del mio successo. Deve essere divertente. Dipende. Dunque, io salii sul podio e non appena mi girai verso il pubblico, vidi un mare di fola in attesa che io iniziassi a suonare. Non sentivo volare una mosca. Poi il concerto è avvolto in una nebbia, come in estasi. Infine, un mare di luce diede il via agli applausi, lunghi, interminabili, vigorosi, esaltanti, eterni. Quanto eterni? Non lo so. Durano ancora.